America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The threat from terrorism is real, but we will overcome it. We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. Restiamo sul terrorismo, dedicato la copertina di questa settimana al terrorismo. Il dibattito in America, beh, devo dire, è molto forte, molto violento. Barack Obama ha fatto un discorso tutto sommato molto blando l'altra sera, non ha dato notizie, non so perché un presidente dà appuntamento alla nazione con un discorso solenne dalla Casa Bianca, tra l'altro solo la terza volta che parla dall'ufficio ovale, per poi di fatto ripetere le cose che ha fatto. Ecco, io credo che qualcuno si sarebbe aspettato, che so, l'annuncio di un intensificarsi degli attacchi aerei nella regione, un programma per cercare di intensificare i controlli di coloro che sono sospetti, di rivedere tutta la documentazione in mano all'FBI o alla CIA, insomma delle misure, come dire, concrete per rispondere alle preoccupazioni degli americani, preoccupazioni che ci sono, devo dire, perché anche se questo attacco è un attacco isolato, è un attacco che magari non si ripeterà a breve, beh, la psicosi degli americani di essere vulnerabili a questo tipo di omicidi, di assassini per motivazioni religiose, per astio nei confronti del paese, beh, è una cosa che devo dire qui ha lasciato il segno. Lo vedo per strada, lo vedo in giro, lo vedo parlando con la gente, lo vedo nelle televisioni, negli articoli, nelle dichiarazioni dei politici. E dunque, davanti a Barack Obama, che fa un discorso razionale, che ha anche delle componenti importanti dal punto di vista della razionalità, cioè perché abbocchiamo a questa provocazione andandoci a coinvolgere magari con delle truppe in un paese straniero e poi le cose magari peggiorano ancora? Ecco, cerchiamo di essere freddi, cerchiamo di essere distaccati, cerchiamo di valutare un pochino quello che succede. Ecco, a fronte di questa posizione, Trump cosa risponde? Sentiamo. We have some breaking news in from the campaign trail. Donald Trump's campaign just released a written statement that reads in part, quote, Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what is going on. Trump, ieri, che è sempre agli estremi, ha detto: propongo di chiudere immediatamente le frontiere a qualunque musulmano. Non estremisti, non sospetti, qualunque persona che sia di origine islamica non può più entrare negli Stati Uniti fino a quando i nostri rappresentanti, dunque fino a quando il Congresso, non avrà messo insieme delle norme, delle regole che ci consentono di capire meglio quello che sta succedendo. Ecco, questa posizione di Trump è una posizione assurda, diciamolo, è una posizione che vuole essere eclatante, vuole raccogliere consensi elettorali, vuole caratterizzare il suo personaggio come un personaggio reattivo che prende una situazione in mano, che reagisce e che fa qualche cosa. L'opposto dunque di quello che è percepito invece in Barack Obama, che sembra non aver fatto granché dopo l'attacco a San Bernardino. Perché è assurda la posizione di Donald Trump? Ma perché il signor Farouk è nato e cresciuto negli Stati Uniti. Non è un immigrato, non è un qualcuno che ha portato con sé il seme della follia. È nato qui, è cresciuto qui, è andato nelle scuole americane, è un americano. Dunque, bloccando alle frontiere i musulmani, uomini d'affari. Ma guardate, vi do un esempio. L'altro giorno c'è stato l'evento con Mario Draghi all'Economic Club di New York. Ebbene, ero andato nel party ristretto, dove le persone hanno la possibilità di avvicinare il presidente della Banca Centrale Europea, di chiacchierare con lui, di farsi una fotografia e così via, così via. Ebbene, c'erano una gran quantità di personaggi, chi di Abu Dhabi, chi di Dubai, chi dall'Arabia Saudita, chi dalla Giordania, personaggi, devo dire, molto solidi, giovani che hanno studiato nelle business school americane, che gestiscono portafogli importanti e che certo non hanno nulla a che fare con l'estremismo islamico. Ecco, la follia di Trump è nello scatenare questo astio razziale, religioso, questa identificazione di un gruppo etnico che in qualche modo può minacciare gli Stati Uniti, che è l'opposto di quello che ha detto Barack Obama, che Barack Obama ha detto ci sono 1 miliardo di musulmani nel mondo, se ce ne sono 20.000, 10.000 che sono delle mele marce, beh, occupiamoci di loro, ma non del resto, perché altrimenti finiremmo per creare antagonismo ben al di là dei 10, 20.000, a quel punto diventano 100, 200, e allora sì che abbiamo un vero problema. Insomma, vi ho raccontato tutta questa storia perché? Perché la questione dopo San Bernardino continua a dominare le prime pagine dei giornali americani, i programmi televisivi, i talk show, i commenti, senza che si sia ancora arrivati a una soluzione comprensibile. E qui torno a quel che dicevo all'inizio, cioè che Barack Obama ha perso un'occasione con questo suo discorso, perché se da una parte è giusto fare i ragionamenti razionali e fare gli ammonimenti, dire attenzione, non possiamo cadere nella trappola, non possiamo confondere le mele marce con l'intera popolazione islamica e così via, dall'altra l'altra, avrebbe dovuto dare delle informazioni molto dettagliate, molto concrete, su quella che poteva essere una reazione degli Stati Uniti all'attacco di San Bernardino, andando a colpire l'ISIS, andando a bombardare, come ha fatto Hollande dopo gli attacchi a Parigi, una serie di obiettivi ben definiti, andando a dare la caccia ai capi dell'ISIS, prendendone qualcuno, come era successo ad esempio con Jihadi John. Ecco, questo per ora non è successo. Io spero che Barack Obama possa dare presto degli annunci concreti, perché è questo quello di cui ha bisogno l'America, è questo quello di cui hanno bisogno gli americani per fidarsi dell'amministrazione e per non cadere nella tentazione di ascoltare, magari recepire il messaggio aggressivo, decisionista, ma tutto sommato privo di fondamento di Donald Trump. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Noi abbiamo cominciato con le canzoni natalizie, tra virgolette, e questa settimana sto facendo un po' di sperimentazioni con canzoni natalizie nuove, alternative, perché poi ogni anno c'è sempre il tentativo di fare una canzone natalizia nuova, una canzone natalizia che lasci il segno, che diventi un grande classico. Devo dire, non è automatico che questo succeda, ma mi sembra giusto esplorarli questi tentativi, per cui oggi sentiamo di Christina Aguilera Christmas Time, una canzone che ha fatto già qualche anno fa, che non ha sfondato per ora come uno dei classici, ma che forse vale la pena di ascoltare. Poi dalla settimana prossima cominceremo con i classicissimi del Natale americano. Christmas Eve, I could not sleep, trying to catch that old Saint Nick, leaving presents under my tree. And every year I fall asleep laying in my bed, dreaming of a million sugar plums dancing in my head. Oh, how much joy it is at Christmas time, spirit of giving in our lives. Oh, how much joy it brings to see the ones in love. Che tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!